E abbiamo un'altra telefonata con cui affrontare un altro argomento, Monica dell'Associazione di Promozione Sociale Scosse. Pronto, ci senti? Sì, mi sento. Buonasera a tutti e a tutte. Ciao, innanzitutto e benvenuta al martedì autogestito. E intanto, se brevemente ci presenti, insomma, l'associazione di cui fai parte e diciamo su che tipologia di progetti lavorate, e poi arriviamo a parlare di un progetto in specifico, diciamo. Sì, SCOSSE è un acronimo che sta per Soluzioni Comunicative, Studi e Servizi Editoriali. È un'associazione appunto di promozione sociale che è nata alla fine del 2011 a Roma, formata fondamentalmente da giovani donne che hanno provenienze di studio diversificate, comunque tutte nell'ambito umanistico, sociologico, linguistico. E i progetti che portiamo avanti sono di diverso tipo, dal lavoro, la promozione dei diritti nel lavoro, la lotta alla precarietà delle vite, e i temi della conciliazione o della condivisione tra tempi di vita e tempi di lavoro, che portiamo avanti con piccole e medie imprese, e i temi della formazione contro gli stereotipi, in particolare nell'infanzia. E quindi appunto in questi giorni, diciamo, insomma, noi dal martedì insomma abbiamo sentito parlare di voi anche in altri momenti, ma in questi giorni, diciamo, SCOSSE insieme a Archivia è se ne è parlato, insomma, anche in articoli sulla stampa, perché appunto questo vostro progetto di formazione degli insegnanti e delle insegnanti nelle scuole materne e primarie ha riscosso attenzioni anche non tanto desiderate. Assolutamente sì. Noi abbiamo presentato a una gara del Comune di Roma alla fine del 2013 un progetto di formazione obbligatoria per le scuole e le scuole, gli asili nido e le scuole dell'infanzia, e abbiamo vinto presentando un progetto che lavorava in particolare attraverso la formazione con laboratori e con relazioni orizzontali con le educatrici e con le formatrici, e che permettendo, insomma, cercando di valorizzare la condivisione di tutte le metodologie appunto legate al riconoscimento e alla ricostruzione degli stereotipi, e soprattutto usando l'osservazione in classe e la progettazione anche di percorsi mirati per quanto riguarda i giochi e per quanto riguarda la lettura. E abbiamo alla fine realizzato, stiamo realizzando un progetto di formazione suddiviso in 8 corsi che riguarda 17 scuole pubbliche, che stava andando molto bene. Avevamo fatto la prima lezione, che era una lezione introduttiva di ampio respiro sui temi del femminismo, della storia della lotta politica che ha portato alla costruzione di questi temi, che ha fatto Archivia, l'associazione Archivi, Biblioteche e Centri di Documentazione delle Donne, che ha sede a Roma nella Casa Internazionale delle Donne. E poi stavano partendo i laboratori. E mentre, diciamo, quando abbiamo iniziato anche a parlare di, oltre che di stereotipi di genere, di come si costruiscono in quest'età così, così precoce, hanno cominciato a manifestarsi, diciamo, degli interessi non graditi, appunto, come dicevi tu. E sono cominciati degli attacchi sulla stampa, in particolare su Avvenire, su altri giornali e su radio di, diciamo, cultura cattolica. Sì, Avvenire, quotidiano della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, e quindi, insomma, all'inizio diciamo che hanno usato proprio i loro strumenti di comunicazione, quindi. Sì, e fino a lì, diciamo, un po' ce lo aspettavamo. Poi hanno cominciato ad arrivare dei fax nelle singole scuole, in tutte le scuole nelle stesse giornate, fax che abbiamo pubblicato anche noi sul sito, indirizzati, emittente era Milizia Cristi, dove siamo accusate di fare educazione sessuale teorica e pratica ai bambini e di promuovere l'omosessualità, nel senso che diciamo invitiamo tutti i bambini secondo loro a, a diventare gay, e poi appunto si è scritto quello che potete immaginare, cioè che l'unico modello possibile di famiglia per vivere, per far crescere felici i bambini è quella naturale eterosessuale. Sì, fra l'altro. E questi attacchi a un certo punto sono diventati anche fisici, nel senso che un esponente di Milizia Cristi si è recato personalmente a consegnare una lettera che era in realtà lo stesso fax presso una scuola, voleva incontrare la funzionaria, per fortuna non ci è riuscito. E lì abbiamo deciso, diciamo, abbiamo pensato che si era toccato proprio un limite che non volevamo oltrepassare, e quindi abbiamo sollevato la questione, insomma, innanzitutto attraverso i nostri canali e poi cercando appunto di sollecitare anche l'amministrazione a prendere parola nei confronti di questo, che era un progetto appunto dell'amministrazione. E devo dire, attraverso un giornalista che è Roberto Ciccarelli, che appunto aveva accurato un articolo sul giornale, è riuscito ad avere quello che noi eravamo riusciti ad avere un pochino meno, cioè si tratta di un sostegno da parte della di un articolo sul Manifesto di giovedì scorso, sì, se non sbaglio, per dirlo a chi ci ascolta. Il sostegno, diciamo, da parte dell'amministrazione e dell'assessora a questa, a questo progetto, insomma, che in fondo loro avevano appunto richiesto attraverso una gara. Ovviamente non è che faccia di per sé moltissimo, però potete immaginare che comunque fa sempre, ha una sua utilità il fatto che l'amministrazione riconosca il valore di questo tipo di progetti, soprattutto quando appunto li promuove e si svolgono nelle scuole pubbliche. Noi al di là di questi attacchi, diciamo, il corso sta andando molto bene, ha una presenza di docenti superiore alla media di quanto di solito accade per i corsi di formazione, e c'è grandissima interattività, e anche risposta che stiamo ricevendo in questi giorni da parte di associazioni, movimenti, comitati, forze sociali è molto alta. Come dire, ovviamente se si trattasse semplicemente dell'opinione di settori cattolici che non incide sullo spazio pubblico, quali sono le scuole pubbliche, a noi ci interessa anche poco, insomma, e in particolare trattandosi poi nello specifico di Milizia Cristi ancora meno, nel senso che si tratta di un gruppuscolo, insomma, che potremmo definire in tanti modi. Il problema è appunto quando poi si va a parlare di quello che succede in una scuola pubblica, e anche che questa vicenda che ha interessato voi di Scosse e di Archivia si inserisce in un momento in cui stanno succedendo molte cose. Stavamo parlando anche oggi, abbiamo parlato nella trasmissione che questa radio dedica alla scuola, del fatto che l'UNAR, cioè l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, ha ritirato degli opuscoli da quello stesso ufficio realizzati come strumento di formazione per insegnanti dalla primaria alla secondaria superiore, sempre sulle tematiche del genere e dell'orientamento sessuale, su richiesta sostanzialmente di Gabriele Toccafondi, che è sottosegretario alla pubblica istruzione, cattolico proveniente dagli ambienti di Comunione e Liberazione. E lì, come dire, allora il clima si fa un po' più preoccupante se appunto questo tipo di chiusura nei confronti di una formazione che non solo è ovviamente legittima, ma è anche necessaria e molto richiesta, perché quello che dici tu cioè mi torna molto, nel senso che gli insegnanti e le insegnanti hanno proprio bisogno degli strumenti per lavorare per la decostruzione degli stereotipi di genere, contro il bullismo, contro l'omofobia, eccetera. E però appunto si sta creando questo clima che appunto peraltro non ha riguardato soltanto questo fatto del Lunar e quello che è successo a voi, perché in Italia sono successi tanti altri piccoli episodi, sì, piccoli o grandi. Sì, devo dire che appunto sollevando la questione romana ci sono arrivate moltissime segnalazioni di eventi anche proprio in questa settimana solamente, che raccontano il clima che appunto esprimevi tu. Molte cose sono opera di Forza Nuova o anche comunque di ambienti più istituzionali, che quindi forse sono anche più preoccupanti. Comincio da un caso che è il caso di Venezia, dove c'è stata una delegata alle pari opportunità, che è una consigliera comunale che si chiama Camilla Silvestri, che ha proposto l'acquisto di una serie di libri per bambini, di favole, di albi illustrati, che rappresentano anche modelli familiari alternativi per le scuole appunto di Venezia. Una cosa che ci ha particolarmente colpito è anche legata a Scozia, perché si tratta della promozione di un catalogo che noi abbiamo, che si chiama Leggere senza stereotipi, perché per noi tutto questo percorso di formazione per chi educa la fascia d'età 0-6 nasce attraverso l'elaborazione di un catalogo di albi illustrati disponibili in Italia, che abbiamo messo a disposizione di tutti gratuitamente sul sito, che sono facilmente reperibili e che rappresentano diciamo favole e immagini privi di stereotipi di genere e promuovono anche differenze e modelli familiari alternativi. A Venezia, dicevo, quello che è successo è che la consigliera delegata per i diritti civili, Camilla Seibezzi, ha proposto ha acquistato per delle scuole il catalogo che appunto si chiamava Leggere senza stereotipi, ed è stata fortemente criticata dal sindaco e dalla giunta per via insomma di appunto pressioni esterne che provenivano al comune, e questo è uno degli esempi di come la contrapposizione avvenga in un versante più istituzionale. Per poi darti un altro esempio, prima di passare appunto ai casi di Forza Nuova, ti posso raccontare appunto che a Torino il sindaco di Torino Fassino, quindi il sindaco del PD, ha fatto rimuovere dal sito del comune le schede prodotte dal servizio LGBT del comune di Torino, quindi da un ufficio dello stesso comune, alcune appunto pagine dedicate alla rappresentazione dell'omosessualità e dei pregiudizi collegati all'omosessualità nella storia, nella cultura. Erano delle schede pensate come materiale didattico per le scuole da utilizzare contro l'omo-lesbo-transfobia. E Fassino ha preso questa decisione, di cui ovviamente si farà carico di tutta la responsabilità, perché comunque la decisione l'ha presa come sindaco, ma diciamo che l'ha presa dopo le proteste di un consigliere comunale, anche questo di area di Comunione e Liberazione, offeso pare per le citazioni delle fonti bibliche utilizzate spesso dai fondamentalisti cattolici per seminare odio nei confronti di gay, lesbiche e trans. Quindi insomma un altro fatto abbastanza vicino a quello di Venezia. Certo, e sabato comincio quindi con una piccola schiera di eventi legati a fatti da Forza Nuova. E tra l'altro Forza Nuova sta adesso predisponendo la raccolta firme per un referendum che ha chiamato omofollia, quindi questo è un referendum che vuole fare una battaglia contro chi è contro l'omofobia. E del resto quando un'iniziativa è firmata Forza Nuova insomma si presenta da sola, ecco, anche qui. Certo, e ha realizzato a Bologna un blitz anti-gay davanti a un gruppo di bambini nel corso di un laboratorio di letture organizzato da un circolo Arci LGBT il Cassero, e proprio presentandosi davanti ai bambini e sostenendo appunto che queste forme di educazione alla differenza rovinano l'identità e minano l'identità futura dei bambini e delle bambine. Ma per dirne un'altra, venerdì a Pordenone c'è c'è stata una manifestazione contro un convegno appunto rivolto a contrastare il bullismo, dove ha partecipato Luxuria, e ad esempio anche domenica, mi sembra, di nuovo a Forza Nuova a Treviso ha fatto un blitz davanti a una libreria storica di Treviso, perché cittadini hanno segnalato che nella libreria erano in vendita dei libri per bambini con contenuti gay, insomma, quindi loro hanno capito benissimo che questa nuova editoria per bambini, per bambine, lavora su questi contenuti, e proprio ovunque siano cercano di contrastarla, insomma, con i loro metodi. Fra l'altro, questo, insomma, ti dico che ho letto su una rivista commerciale, diciamo, cioè una rivista che di quelle che danno gratuitamente nelle catene, in una catena di profumi, di profumeria. Sì, ho capito. A cui non faremo pubblicità, ma lì è uscito un articolo che parla così, come se fosse la descrizione della realtà di fatto, del fatto che viene imposta per legge, si dice addirittura, la teoria del gender, così come la chiamano i gli integralisti cattolici, e comunque le fiabe gay ai bambini nelle scuole, insomma, facendo una forzatura della realtà evidente. Quindi, insomma, è evidente quello che... Tra l'altro, se posso aggiungere qualcosa. Prego. Su questo, quell'articolo, perché noi l'abbiamo anche commentato nell'ambito del corso di formazione che stiamo facendo, e attacca un report dell'Unione Europea che si chiama Standard per l'educazione sessuale in Europa, e che indica un quadro di riferimento per chi si occupa di politiche, autorità scolastiche e interventi sanitari, che è sull'educazione sessuale e sui rischi, sull'importanza di avere di dare una immagine positiva della sessualità, ovviamente differenziata a seconda delle varie fasce d'età, per evitare il rischio di infezioni sessualmente trasmesse, di gravidanze indesiderate in adolescenza e di violenza sessuale. Quindi un testo molto ricco, che non ha niente a che fare con la pubblicità che quel giornalino gli ha fatto. E comunque, insomma, quello che ci dicevamo tra noi del martedì autogestito è che evidentemente, insomma, siamo davanti a una campagna organizzata in alcuni settori cattolici, insomma, più oltranzisti, che forse potrebbe prendere le mosse da quanto è successo in Francia, perché, insomma, abbiamo seguito che una campagna analoga, prima che nel nostro paese, è partita in Francia a fianco o insieme, insomma, alla campagna Mani pour tu, che era, insomma, quella campagna che si è contrapposta alla legge per la ratifica del matrimonio tra persone dello stesso sesso in Francia, e che più o meno, insomma, ha portato nel dibattito pubblico francese parole molto simili a quelle che leggiamo sugli scritti di questa gente. Sì, sì, in Francia dall'autunno scorso c'è stato un dispositivo in quasi 300 scuole che si chiama ABCD, che come un po' il vostro obiettivo cerca a formare gli insegnanti al fatto che riproduscono le ineguaglianze di sesso, e dunque di fare lavorare gli insegnanti su come ridurre gli stereotipi loro e ridurre comunque la trasmissione di queste situazioni riproduttrici dell'ineguaglianza sessuata. E questo è un programma, partito dall'istruzione pubblica, che anche lì sono mossi gruppi scuoli cattolici dell'estrema destra, trasformando comunque questi corsi di formazione in uno, hanno addirittura fatto campagna verso dei genitori chiedendo di non mettere gli alunni a scuola sola per due giorni, era il 24 gennaio scorso, dicendo che gli alunni sono, i bambini sono diventati strumenti di lobby che vogliono introdurre la masturbazione generale all'asilo, fare cambiare sessi a tutti i bambini, delle cose veramente da vomitare. E vabbè, per dire che sì, non è solo in Italia, c'è proprio, no, perché ci siamo chieste insomma perché adesso c'è questo attacco generale in Italia, ecco, non so se voi ve lo siete chiesto, se vi siete date delle risposte. Ma noi diciamo, per quello che ci siamo dette, è che questo attacco intanto prende di mira anche una crescita di progetti di formazione e di iniziative comunque da parte anche di associazioni no profit nelle strade, di laboratori che sempre di più hanno a tema i modelli familiari, e quindi che è anche una risposta a un nostro avanzamento. È vero che molti sono gruppuscoli, però io sarei anche attenta a non far diventare questo un problema di semplicemente una forza estremista che ha poco, no, non lo è, anche valore, perché no? Ha preso parola Bagnasco, che è il presidente nazionale della CEI, esatto. Ha preso parola a Venire, ha preso parola al ministero, sta facendo dei seminari a Genova sull'argomento, dal 23 al 26 aprile a Nocera Umbra ci sarà un convegno che proprio a tema educare al femminile e al maschile, con una locandina con su scritto maschi e femmine li creò. Per concludere, diciamo, ci sono quindi tutta una serie di incontri della Chiesa Cattolica che si concluderanno il 10 maggio a Roma al Vaticano, con un'iniziativa dove sarà presente il Papa su educazione, scuola e famiglia. Cioè la classica iniziativa dove chiedono soldi per le scuole paritarie, normalmente loro finiscono sempre così, insomma partono da grandi sistemi e poi battono cassa. Questa è una mia opinione. Sì, penso che a tema però appunto ci sia anche la diciamo un arretramento, che tutto questo è interessante anche per chiederci quanto ci sia da una parte un nostro avanzamento nelle proposte e d'altra parte però una società che in fondo è ancora molto ancorata diciamo a questo modello di naturalità della famiglia, insomma, che pensavamo un po' più superato, insomma, ma che invece sembra appunto essere molto non solo diffuso, ma anche una cosa per cui abbiamo appunto deciso di esporre, di dire quello che stava succedendo, era proprio che ci è sembrato che invece parlandone semplicemente così tra persone, non in modo pubblico, politico, serio, ci fosse molto indifferenza, no? Come dire, vabbè, ma tanto in fondo che fanno? Solamente cercano solamente al loro modo di difendere un modello insomma familiare, che è quello in cui credono, insomma, mentre invece volevamo porre l'attenzione su un versante prettamente politico, perché appunto è vero che molte cose stanno nascendo, si stanno sperimentando, però è anche vero che non sono in rete. Non sono in connessione tra di loro, quindi questa è una cosa su cui forse dovremmo ragionare, perché varrebbe la pena ad esempio mettere tutti i vari progetti, iniziative, associazioni, realtà, scuole che lavorano su questo tema insieme, per provare appunto a creare quasi, come dire, una lobby virtuosa, no? Mi verrebbe da dire. Sì, certo, e poi insomma l'appello che possiamo fare da questi microfoni, io credo, è anche quello di stare a chi ci ascolta, di tenere molto alta l'attenzione per chi frequenta le scuole da qualunque punto di vista, come studente, come insegnante, come genitore, genitrice, insomma, perché insomma si faccia attenzione a che questi discorsi non abbiano insomma più di tanto spazio dentro le scuole pubbliche. Parlo appunto di discorsi che vorrebbero limitare la possibilità appunto di costruire discorso pubblico contro gli stereotipi di genere, contro il sessismo, contro la violenza, contro l'omofobia, la lesbofobia, eccetera. E non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se no insomma possiamo salutarci e poi magari ci aggiorneremo un po' più avanti. Sì, io spero appunto che ci siano, diciamo, che questa sia un'occasione per riflettere e soprattutto per costruire una rete, un incontro pubblico di anche livello nazionale, insomma, in cui ragionare non solo su quello che sta succedendo, ma anche su quali sono gli elementi di forza, di innovazione che stiamo mettendo da più parti in piedi e che appunto fanno paura anche per questo. Monica, grazie ancora e alla prossima. Ciao. Ciao.